English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Io non so se capita anche a voi, ma io ogni tanto mi metto a giocherellare su internet e salto di video in video. Non mi ricordo più alla fine cosa stavo cercando all'inizio, ma serendipity, trovo sempre qualcosa di interessante e a un certo punto ho cominciato a imbattermi in video di tutorial di pronunce. Quindi attori o voice coach, un'espressione che ultimamente va molto di moda, cioè allenatori della voce, soprattutto per gli attori, che spiegano la giusta pronuncia. E in questo caso io ho trovato questo video in un portale che si chiama VideoJug, che è un portale in generale di tutorial, registrato da Gareth Jameson, che è un attore e appunto anche un voice coach, che insegna a tutti il perfetto accento british. Sentiamone un estratto. Hello, I'm Gareth Jameson. I'm an actor and a voice coach from www.londonvoicelessons.com. Here are some tips for working on your voice. Now, you might want to do a British accent because you're in a play, or maybe you want to impress your friends, or maybe you want to fit in better in the UK. So we're going to start with the British R sound. Now, when I'm saying British, I actually mean the sound that's used in the very south of England, the received pronunciation accent that you might hear on the BBC. Ecco qua, Gareth Jameson spiega perché potrebbe servire a tutti prima o poi conoscere la perfetta pronuncia britannica. Effettivamente ci sono varie ragioni. Tra l'altro questo voice coach mi fa venire in mente anche il dialect coach, che tutti sanno, almeno chi ci segue sa, io ho adorato il film Carnage. Alla fine di quel film si notava che sia Kate Winslet che Christoph Waltz avevano avuto un dialect coach, perché non hanno degli accenti prettamente americani, ma dovevano sembrare dei newyorkesi. Quindi insomma anche gli attori appunto usano i voice coach e dialect coach, e in questo caso invece li si può usare per avere delle tips, parola che vuol dire anche mancia, ma in questo senso, in questo caso vuol dire suggerimento. E ancora una volta vediamo quanto sono versatili a volte le parole inglesi, specie se sono brevi. Quindi tips for, suggerimenti per, sapete che le preposizioni vogliono il gerundio, quindi se c'è un verbio, quindi for working on your voice, quindi dei suggerimenti per lavorare sulla vostra voce. Because you are in a play, cioè sei in uno spettacolo. Ecco, questo tra l'altro è bello, no? Il fatto che appunto spettacolo venga se lo vogliamo tradurre letteralmente è gioco, tant'è che to play a role vuol dire avere un ruolo in uno spettacolo, giocare un ruolo letteralmente, che dà l'idea forse di quanto idealmente sia appunto un gioco quello dell'attore, o comunque una professione che dà la gioia che si ha quando si gioca. Oppure potresti anche aver bisogno di un voice coach perché you want to impress somebody, vuoi fare to impress, non vuol dire impressionare nel senso spaventare, ma fare una buona impressione, quindi ha un significato sempre positivo in inglese. To impress your, I don't know, your fiancé, your teacher, your boyfriend, whoever. Oppure magari ti sei trasferito in Gran Bretagna e vuoi l'accento british. Ed ecco qua un'altra parola versatile, perché fit, naturalmente da fit viene anche fitness, che è essere in forma, ma to fit in better vuol dire sentirsi meglio, cioè o comunque far parte meglio, sentirsi più a proprio agio in un paese che naturalmente parla una lingua che non è la tua, e quindi vuoi a tutti i costi toglierti l'accento, magari l'accento italiano se ti trasferisci lì, o magari l'accento del nord dell'Inghilterra se vai a Londra. L'Italia è fatta da tantissime città, ma altri paesi come la Gran Bretagna, noi bisogna identificarla con Londra, e quindi the sound in the very south of England, questo very usato insieme a un altro aggettivo, in questo caso appunto south, è divertente perché dovremmo tradurlo letteralmente nel molto sud dell'Inghilterra. Naturalmente in italiano non diciamo così, ma vuol dire proprio nel vero sud dell'Inghilterra, e sappiamo che Londra è nel vero sud dell'Inghilterra, terra, e quindi da lì il vero British accent. Per il vero British accent, in particolare con la R, vi rimandiamo ai video di Gareth Jameson su VideoJug. Ma passiamo a un altro video, sono capitata per caso in un altro sito, si chiama Soso Exchange e si occupa proprio di corsi di lingua e corsi di pronuncia. Hi, welcome to Daily Pronunciation. Today's word is innuendo. I'm going to demonstrate how to pronounce the word. Please watch closely how I use my lips, teeth, jaw, tongue, and facial muscles to say the word innuendo. In-u-en-do. Thank you for watching. See you tomorrow. Welcome to Daily Pronunciation, cioè questo sito Soso Exchange tutti i giorni spiega una pronuncia. Che tra l'altro noi naturalmente, noi italiani, vedendo questa parola la pronunceremo in un modo completamente diverso, perché è di chiarissima origine latina, quindi noi diremmo innuendo. E invece giustamente sono lettere che agli inglesi richiamano agli americani in questo caso, perché avrete sentito che l'accento della nostra voice coach in questo caso è americano, e lei dice quindi today's word is innuendo, e già lì, se non la vediamo scritta, ci crea qualche problema, però insomma è scritto innuendo, e this is a noun, è un nome, ci spiega. E poi ci fa vedere proprio nel video come si pronuncia, perché effettivamente la pronuncia è proprio una questione, direi, muscolare. Quindi lei ci dice nel video: I'm going to demonstrate. Sappiamo che questa è una forma di futuro che significa un futuro veramente a brevissimo, sta per farlo. Quindi più che dire I will demonstrate, che potrebbe essere tra una settimana, tra un mese, tra un anno, I'm going to demonstrate, cioè in pochissimi secondi abbiate la pazienza di seguirmi e vi farò vedere, vi dimostrerò. Watch closely, però guardate con attenzione, più che da vicino. To watch closely vuol dire proprio con attenzione in questo caso, e non soltanto, perché qui non si tratta tanto di ascoltare, ma appunto lei vuole che guardiamo, watch. Lei vuole proprio che esaminiamo la sua espressione facciale nel dettaglio. Che poi è quello che appunto chi ha dei difetti di pronuncia, credo che funzioni proprio così, cioè si cerca di capire da dove arriva quel difetto di pronuncia, quindi bisogna guardare my lips, my jaw è la mandibola, my teeth, i miei denti, my tongue, la lingua. Io non l'ho visto il video, però se ci fa vedere tutte queste cose potrebbe non essere proprio una cosa piacevolissima. Però watch closely, lips, jaw, tongue, teeth e persino i facial muscles, i muscoli facciali. E dopodiché ci ringrazia, perché lo spettacolo appunto potrebbe non essere piacevolissimo. Thank you for watching. E anche qui vedete for, e quindi bisogna poi usare il gerundio, quindi non thank you for watch, ma thank you for watching. See you tomorrow. Ci vediamo domani. Con un'altra pronuncia di Soso Exchange. Il terzo audio di questa puntata di English 24 l'ho trovato sempre saltabeccando alla ricerca di pronunce, e in particolare di differenze di pronunce tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Questa volta non è solo una differenza di pronuncia, è proprio una differenza di lingua, una differenza di slang. Due personaggi che amo particolarmente: Hugh Laurie, che è il nostro Dr. House inglese, di Oxford peraltro, ospite di un'altra star famosissima che è Ellen DeGeneres nel suo show. Ebbene, Ellen lo interroga per sapere se insomma riesce a capire l'inglese come viene parlato negli Stati Uniti. I'm going to give you some slang, some American slang. We're going to take turns. We'll see how much you know and how much I know. Okay. Okay. The first one I'm going to give you is flossing. Do you know what flossing means? I mean, actually flossing. No, it's slang. Right. It's slang. You do know what actual flossing is. Well, I know. I know the Americans' opinion of British dental practice, but yes, I do know that. Right. That would be something close-fitting. I don't know. No. Oh, there was... That would be... That was to really show you how wrong you were. There right. Was, that's kind of rubbing it out. That's yeah, it really sort of aggressive, is. Isn't it? It was aggressive. I'm sorry. Because I could have just said no, but we just... In America, we like to really rub it with in. With a klaxon. Yeah. it's showing off. Flossing. Really? Yeah, showing off is flossing. All right. Due personaggi straordinari, Hugh Laurie e Ellen DeGeneres, ne combinano di tutti i colori, chissà se abbiamo colto tutti in questo audio. Ebbene, si parla di una parola. Ellen chiede a Hugh se conosce il significato di questa parola, flossing. E tra l'altro qui notate subito che mentre la nostra, prima l'esempio era I'm going to, lei lo abbrevia, è molto americana, dice I'm gonna give you, quindi ti darò some slangs, some American slangs, and we'll take turns, quindi poi noi purtroppo non abbiamo sentito, ma basta cercarlo su YouTube, il turno di Hugh, perché qui to take turns vuol dire fare a turni, e la prima parola è flossing, che vuol dire usare il filo interdentale. Forse hanno usato questo verbo perché in America veramente l'uso del filo interdentale è diffusissimo. Meno nel Regno Unito, e infatti subito Hugh Laurie fa la battuta, dice ma mi stai chiedendo se so cosa significa, perché? Perché lui dice ma actual flossing, che naturalmente actual sappiamo che è un false friend, che non vuol dire attuale ma vero, quindi mi vuoi, cioè il vero flossing, cioè gli sembra troppo semplice, perché allora non sarebbe uno slang, quindi il vero significato di flossing è flossing. E lui, lei naturalmente dice, ma no, chiaro che no. E lui, vabbè, certo, I know the Americans' opinion on British dental practice, come dire che gli americani pensano che gli inglesi si lavino poco i denti. Allora lui ci prova, dà una sua risposta e succede un putiferio perché parte un segnale acustico drammatico di no, ha sbagliato del tutto, e si spaventa anche un po'. Sì, perché lui dice, ma potrebbe essere qualcosa close fitting, cioè qualcosa che ti stringe, e parte questo clacson e lei gli dice, questo è to show how wrong you were, non soltanto che you were wrong, che ti sei sbagliato, but how wrong you were, quanto ti sei sbagliato. E anche qui ancora dice, vabbè, è una cosa che è nostra, è da americani. Sì, e qui usa un altro, una specie di slang, che è un phrasal verb, to rub in, vuol dire letteralmente strofinare, no? Come dire, ti avverto, ecco, ma ti avverto proprio in un modo che non è un modo discreto per dirti che hai sbagliato. Perché in realtà flossing vuol dire... to show off, che è un altro phrasal verb che vuol dire vantarsi. Quindi sappiate che una forma, io non lo sapevo assolutamente, che flossing, cioè usare il filo interdentale, vuol dire anche vantarsi di qualche cosa, vantarsi in un modo un po' sguaiato. Nemmeno io lo sapevo, mi ha molto stupito, sono anche molto carine le altre domande, cercatele in rete, perché è finito il nostro tempo per l'English 24 di questa sera. Devo ringraziare Filippo Aureggi in regia, ricordarvi il nostro appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.